l'ultima parte a narrare un pezzetto della vita del santo curato d'Ars. Ecco, abbiamo scelto questo santo perché ci sembra il modello più indicato per ogni sacerdote in ascolto, sia i sacerdoti in cura d'anime, che sono i più direttamente interessati alla cosa, ma anche tutti gli altri sacerdoti, perché il curato d'Ars ci sembra che davvero incarni in se stesso ogni perfezione della vita sacerdotale. Stavamo parlando, se ricordate bene la volta scorsa, di una grande istituzione creata dal curato d'Ars nel suo paese, la famosa Provvidenza. La Provvidenza era, diciamo, una specie di collegio, convitto, scuola, non so come chiamarla, femminile, che raccoglieva circa 60 fanciulle. E stavamo parlando della Provvidenza come modello di educazione popolare. Dicevamo che il curato d'Ars non aveva tanto di mira di formare delle donne sapienti nel senso umano, che fossero laureate, ma voleva creare soprattutto delle donne sapienti nel senso divino. E non aveva neppure tanto riguardo per l'igiene, dato che in una casa che poteva contenere al massimo a stento 30 bambine ragazze, lui ce ne faceva stare 60. Ecco, però tutto questo era ritenuto secondario dal santo curato e dalle sue collaboratrici che dirigevano questa istituzione. La cosa più importante rimaneva coltivare l'anima, coltivare la persona di queste ragazze che si mettevano, diciamo, che si affidavano alle loro mani. Ecco, diciamo che la ristrettezza del locale dove andavano a scuola obbligava tutte quante a fare scuola insieme, queste 60 fanciulle, per cui le più piccole, diciamo che a squarciavola compitavano il sillabario davanti, poi le mezzanelle in mezzo all'aula si esercitavano in altre lezioni, infine le più anziane al fondo dell'aula ascoltavano altre spiegazioni. Poteva sembrare un po' una bolgia, però in effetti così non era, perché tutto avveniva nel massimo ordine. Ecco. E bisogna aggiungere una cosa che mi sembra notevole, soprattutto per i ragazzi di oggi, che questa scuola di Ars, del curato d'Ars, ricopiava un po' lo zelo eccessivo del suo fondatore, cioè non finiva mai, durava tutto l'anno, non c'erano mai vacanze, e soltanto che c'era il giovedì di vacanza, per cui voi mettete insieme 52 giovedì e quindi vedete che le vacanze venivano fatte ugualmente, però senza mai interrompere l'anno scolastico. Mi pare un modo molto molto intelligente. Ecco, per cui queste povere direttrici, che facevano anche le maestre, non potevano troppo badare all'igiene, all'ordine, alla pulizia, erano troppo impegnate in altre cose più importanti. Adesso vediamo cosa scrive un avvocato di Leone che visitò quest'opera nel 1841. L'esistenza dell'orfanotrofio creato da Don Vianney, scrive un avvocato di Lione che visitò l'opera accuratamente nel 1841, ci parve da sola una cosa meravigliosa. 60 fanciulle, alcune di 12, altre di 15 o 18 anni, venute da tutti i paesi e ricevute gratuitamente, vi passavano un tempo indeterminato, quindi erano sistemate nelle fattorie del paese. Durante il loro soggiorno imparavano a conoscere, ad amare e a servire Dio più di ogni altra cosa. Era una specie di famiglia nella quale le anziane davano esempio, consiglio e insegnamento. L'istruzione non era molto profonda, ma vi regnavano una fede, una pietà, una docilità ammirabili. Non si trattava di un'istruzione comune, ma piuttosto d'una vera emanazione della santità del suo fondatore. Denaro, vita, spirito e direzione, tutto veniva da lui. Opera con caratteri soprannaturali che poteva vivere solo per l'influenza immediata dell'anima eminente che l'aveva fatta nascere. Quindi dobbiamo ribadire che il santo curato d'Ars badava più alla educazione che non alla istruzione. Ecco, però dobbiamo dire che in definitiva ricevevano anche una buona istruzione queste ragazze. Certo, non un'istruzione per andare a insegnare nell'università, però un'istruzione sufficiente, un'istruzione elementare sufficiente per poter, diciamo, svolgere i compiti che avrebbero dovuto svolgere delle contadine nei paesi di campagna. Ecco, però dobbiamo sempre ribadire che in questo ambiente venivano soprattutto formate nella virtù e nella pietà, ed erano queste le cose più importanti per affrontare poi la vita che le attendeva. Non dobbiamo dimenticare che il grande Papa San Pio X disse, proclamò che questa provvidenza di Ars era un modello di educazione popolare, e fu una lode davvero grande e una conferma della Chiesa a quest'opera del Santo Curato. Ecco, poi adesso dobbiamo dire una cosa molto bella, che questa provvidenza alla fin fine risultò l'opera preferita di Don Vianney, perché amava quella casa più di ogni altra cosa, e perché questa casa era dedicata a povere fanciulle. Il Santo Curato d'Ars era un uomo che vedeva lontano e vedeva proprio nella donna il destino dell'umanità, in bene o in male. Quindi questa casa dedicata a delle fanciulle, delle future donne, delle future madri di famiglia, lui ci teneva più di ogni altra cosa. E dobbiamo dire anche che questa provvidenza fu anche per lui una provvidenza, in quanto che lo liberò da un grave incomodo, cioè l'incomodo di prepararsi il pasto quotidiano. Sappiamo già che quanto a nutrirsi il curato d'Ars lasciava molto a desiderare, perché spesso si dimenticava di mangiare, e quando mangiava, mangiava delle cose talmente ripugnanti a volte, come delle patate ammuffite, che davvero non si possono chiamare i pasti i suoi. Però da quando esistette la provvidenza, il Santo Curato fu liberato da questo incarico di prepararsi i pasti, e chiese per 20 anni alla provvidenza la carità di una tazza di latte, diciamo l'elemosina di una tazza di latte. E era inutile che si volesse servirlo a tavola, perché lui non accettava mai. Prendeva la sua razione di latte con un po' di pane, così in un angolino del focolare, da solo, e 5 minuti erano anche troppi per il suo pasto affrettato. E più di una volta lo videro con questa scodella in mano trangugiarla in fretta nel tragitto fra la provvidenza e la chiesa. Cosa faceva il Santo Curato d'Ars dopo il pasto in questo ambiente? Il suo passatempo preferito, fin quando poté farlo, fu quello di vedere queste bambine che si divertivano, che giocavano nel cortile. Ecco, è molto bello vedere un santo impegnato fino allo spasimo nella vita spirituale, essere lì proprio così come un semplice spettatore che guarda queste bambine giocare e prende parte proprio con gioia alla loro stessa gioia. Ecco, il Curato d'Ars si beava leggendo negli occhi di queste bambine la purezza, l'innocenza, e dice che per un momento dimenticava le brutture del peccato e la malizia degli uomini, e si dice che le conosceva una per una, e di ognuna conosceva i problemi, e tutte quante le incoraggiava con paterno sorriso sulla via del bene. Inoltre aveva molta fiducia il Curato d'Ars nella preghiera di queste bambine, e quando aveva qualche grazia particolare da chiedere al Signore si rivolgeva a loro perché facessero da intermediari, e dice che otteneva sempre qualunque cosa chiedesse per la loro intercessione. Dobbiamo dire anche che un giorno fece anche un po' una sorpresa a queste piccole ospiti, cioè preparò, diciamo, un oratorio campestre nel cortile, mise una statua dell'Immacolata e sotto un pergolato, ed ecco che organizzò un luogo di preghiera all'aperto, e quando c'era bel tempo tutta la comunità si riuniva soprattutto alla sera. Quando queste orfanelle dovevano partire, vediamo un po' cosa succedeva. La maggior parte delle orfanelle non lasciavano definitivamente la provvidenza, se non all'età di 19-20 anni. Alcune però, prima di quell'età, andavano a servire nelle fattorie del paese, ma solo durante i lavori invernali. Don Vianney non le abbandonava alla loro partenza, aveva già loro cercato una sistemazione conveniente. Più tardi le consigliava per il matrimonio, dava loro un po' di denaro e forniva i capi del corredo. Seguiva specialmente nella vita, coi suoi incoraggiamenti, con le sue preghiere, quelle che si facevano religiose. Mai padre si mostrò così preoccupato di lui e fu più amato. Quindi stiamo conoscendo un altro lato del curato d'Ars, questo suo gran cuore di padre, che amava queste bambine proprio come figlie predilette. Adesso un breve accenno anche ai catechismi nella Cappella della Provvidenza. Vedremo più avanti che i catechismi del curato d'Ars saranno molto celebri e saranno molto frequentati e ascoltati, diciamo, da persone che venivano da tutta la Francia e da tutta l'Europa. Ma il piccolo seme di questi famosi catechismi fu gettato proprio qui nella Cappella della Provvidenza. Quando finiva, diciamo, la scuola, la mattinata di scuola, il curato d'Ars, quasi di soppiatto, entrava nell'aula scolastica e con la sua grande semplicità si metteva a fare del catechismo. E inizialmente a questi catechismi assistevano solo le direttrici, e le fanciulle. Però poi, siccome la gente lo cercava, questo curato, questo santo curato, allora piano piano la gente cominciò a interessarsi anche dei catechismi, e prima cominciarono ad ascoltarli dalla finestra di questa aula, poi dalla porta, poi quando trovarono un minimo spazio entrarono dentro nella stessa aula. Sentiamo un po' la descrizione che ci va di questi catechismi ancora all'inizio da parte di un canonico, di un sacerdote che assistette nel 1842. C'erano, come riferisce il canonico Champenois di Bourges, che fu testimonio della scena nel 1842, le fanciulle della casa Buone Donne che filavano con la conocchia, le direttrici stesse che occupavano così i rari momenti di libertà e ancora, se ben ricordo, alcune galline appollaiate sulla tavola. Il curato entra in cotta, prende un catechismo e, appoggiandosi alla madia, incomincia. Fanciulle mie, siamo rimasti ieri alla lezione sul matrimonio, e legge la domanda: qual è la causa ordinaria del fallimento dei matrimoni? Quindi legge la risposta e poi spiega: ragazze, quando due si sono appena sposati, non smettono di contemplarsi, si trovano amabili, con tante belle qualità, si ammirano e si fanno mille moine. Ma la luna di miele non dura sempre. Viene un momento in cui essi dimenticano le belle qualità che avevano scoperto nell'altro, ed ecco i difetti che prima non avevano notato. Allora ce n'è di quelli che non possono sopportarsi, e il marito chiama la moglie fannullona, vipera, buona nulla, eccetera. Il canonico Champenois aggiunge: rimanevo stupefatto di quella familiarità e di quella spigliatezza. Diedi un'occhiata all'assemblea. Tutti ascoltavano in un religioso silenzio, neppure un sorrisetto. Molto bella questa testimonianza di questo sacerdote. Purtroppo dal 1845, siccome i pellegrini che affluivano ad Ars erano sempre più numerosi, allora il santo curato dovette abbandonare questa sede perché il catechismo potesse essere ascoltato da più persone, dovette trasferirsi nella chiesa parrocchiale. E molti rimpiansero questi primi tempi dove il curato, insomma, era come un papà in mezzo ai suoi figli. Adesso comunque, carissimi, proseguiamo con un altro capitolo, sempre fino alla mezzanotte o mezzanotte e qualche minuto, un altro capitolo che è intitolato Ars non è più Ars. Ecco, dobbiamo iniziare questo capitolo con una testimonianza. Dunque, siamo appena nel 1820, solo dopo 2 anni dell'arrivo del santo curato nel paese. Ebbene, un sacerdote, avendo saputo che il curato era stato trasferito in un altro paese, però non avendo ancora saputo che la cosa era poi andata a monte, così scrisse alla castellana di Ars, sua benefattrice, scrisse: ho sentito con molto dolore e sorpresa che avete perduto il vostro santo curato. La provvidenza ve l'aveva dato alla parrocchia per far rifiorire la pietà. Mi auguro di tutto cuore che sia sostituito da un sacerdote capace di mantenere il fervore che regna ad Ars. È una testimonianza molto preziosa perché ci ci documenta che appena dopo 2 anni dal suo arrivo la parrocchia era già stata molto cambiata dal suo zelo sacerdotale. Ecco, poco più tardi, circa 5 anni e mezzo dal suo arrivo, lo stesso curato, scrivendo a quella famosa signora vedova di vedova Fayot, dove lui aveva soggiornato quando era disertore, lui stesso scrivendo a quella vedova esce, diciamo, come in un grido di trionfo, dice: io sono in una piccola parrocchia piena di religiosità che serve il Signore con tutto il cuore. Certo, il curato d'Ars non avrà descritto tutta la realtà della sua parrocchia, perché c'era ancora molto da lavorare, però essendo un santo non poteva mentire, per cui questo ottimismo doveva essere certamente giustificato. Si attribuisce molta parte di questo cambiamento di rotta dei suoi parrocchiani a un celebre pellegrinaggio a un santuario mariano a Lione che il curato organizzò nei primi tempi dal suo arrivo ad Ars. Ecco, adesso ascoltiamo una testimonianza molto preziosa di uno di quelli che fecero il pellegrinaggio con lui e con tutti i parrocchiani, e sentiamo un po' come sono andate le cose. Nel 1823, precisamente il 6 agosto, giorno della nostra festa patronale, il buon nostro curato ci condusse alla Madonna di Fourvière. Posso parlare di quel pellegrinaggio perché anch'io vi partecipai. Con quell'atto solenne Don Viennet voleva testimoniare la nostra riconoscenza alla Madonna per i preziosi ornamenti offerti dal signor Visconte di Ars. Ci accompagnavano 2 parroci dei paesi vicini, Don Martin, parroco di Savigneux, e Don Robert, parroco di Saint-Euphémie. Quest'ultimo aveva circa 80 anni. Partimmo da casa dopo mezzanotte. Penso che ci fossero i 2/3 della parrocchia in quel pellegrinaggio. Andammo in processione fino a Trevoux, preceduti dalle nostre bandiere, cantando inni e recitando il rosario. Sul far del giorno eravamo a Trevoux. Ci imbarcammo poi su 2 grandi barche trainate da cavalli. Prendemmo terra a Lione, un po' al di sopra di Vaise. Al di là ci dirigemmo in processione su Fourvière. Il curato d'Ars celebrò la Santa Messa. Parecchi di noi ricevettero la Santa Comunione. Poi tornammo facendo la stessa strada. La gente usciva a vedere il nostro passaggio e ci manifestava la propria meraviglia. Quando raggiungemmo le 2 imbarcazioni, Don Viennet si imbarcò per primo con un certo numero dei suoi parrocchiani. Ma siccome altri tardavano un poco ad arrivare, i barcaioli, uomini rozzi e grossolani, si misero ad imprecare. E subito il curato sbarcò con alcune persone che lo seguirono e se ne tornò a piedi fino a Neuville. Noi compimmo il viaggio sulla Saône e li raggiungemmo là alcune ore più tardi. Da Neuville tornammo ad Ars in processione. Quando passavamo davanti a qualche chiesa suonavano le campane. Giungemmo a casa che era notte fonda. Quindi un pellegrinaggio memorabile, questo organizzato dal Santo Curato nel 1823, il 6 agosto la Trasfigurazione, che era anche la festa patronale di Ars. Come dire appunto che la grande artefice di questo cambiamento di rotta della parrocchia di Ars era soprattutto Maria. Ecco, questo è stato appunto lo scopo per cui il Santo Curato fece quel pellegrinaggio, per mettere nelle mani di Maria la sua parrocchia. Ecco, però da questo racconto non dobbiamo dedurre che tutti i cittadini di Ars fossero cambiati così radicalmente. C'era ancora molto molto lavoro da compiere. Ci sono ancora molti che non praticano regolarmente la Chiesa. Nel tempo dei grandi lavori non ci si farà scrupolo ancora per parecchi anni a voltare il fieno di domenica, a portare al coperto dopo i vespri domenicali il raccolto, eccetera, eccetera. Soprattutto perdura ancora per molti anni quella famosa frenesia del ballo di cui abbiamo parlato, che sembra essere penetrata proprio nel sangue di questa gioventù contadina. Ci saranno poi altre occasioni, altri scossoni alla parrocchia, e saranno un giubileo nel 1826 e una missione nel 1827. Comunque sentiamo adesso una testimonianza molto bella della famosa direttrice della Provvidenza, Caterina Lassagne, sulla influenza che ha avuto la santità del Santo Curato su questi cittadini di Ars. Non si conosceranno mai abbastanza, scrive Caterine Lassagne, le grazie di conversione ottenute dal Signor Curato con le sue preghiere, specialmente con la celebrazione del Santo Sacrificio. Si era operata una rivoluzione veramente nei cuori. La grazia era talmente forte che ben pochi potevano resistere. Quasi tutti lavoravano con serio impegno per uscire dal peccato. Il rispetto umano era bandito, si aveva vergogna a non fare il bene e a non praticare la propria religione. Si vedevano uomini seri e pensosi, se ne udivano alcuni che non si erano accostati alla confessione da lungo tempo, dire ad alta voce: «Io mi voglio confessare!» Tutti erano animati da sante disposizioni. Il Signor Curato in una istruzione disse loro queste parole: «Fratelli miei, Ars non è più Ars. Ho confessato e predicato in giubilei di missioni, ma qui era diverso». E si era nel 1827. Bellissimo. Adesso, carissimi, per questi ultimi 10 minuti che ci rimangono, più o meno, noi vogliamo parlare, fare degli esempi pratici di come erano cambiate le cose in questo paese. Cominciamo a dire questo particolare, che mi sembra molto indicativo, che adesso, dopo l'arrivo del Santo Curato, dopo che il Santo Curato era in paese da appena qualche anno, potevi vedere addirittura dei giovani, dei ragazzi, dei contadini, giovani contadini, che precedevano i cavalli con il rosario in mano durante i giorni feriali, e tutte le sere suonava la campana per la preghiera, e la chiesa si riempiva presto di gente, tutti quelli che potevano, mentre quelli che non potevano, che erano impegnati in qualche lavoro urgente in casa, pensate, in quel momento si inginocchiavano davanti a qualche immagine sacra per unirsi alla preghiera che faceva tutta la comunità, faceva nella chiesa parrocchiale. Ecco, quindi le case dove era rimasto qualcuno in quell'ora, quell'ora di pace, sembravano un prolungamento della chiesa. Poi un altro esempio: all'ingresso di ogni podere nella campagna si collocavano delle piccole croci, ecco, formate da due rami legati assieme, e le stesse croci si issavano poi al tempo della mietitura sul mucchio dei covoni, e i lavoratori si stimolavano al lavoro intonando ingenue canzoni sacre, canzoni religiose, e tutti quanti sembravano molto più sereni e non si udivano più ritornelli triviali, parole sconvenienti e bestemmie. Adesso vediamo una bella testimonianza della famosa baronessa signorina Alice di Belvei, che era una grande benefattrice del Santo Curato e che un giorno andò proprio in visita ad Ars. «Ho passeggiato tra i campi al tempo del raccolto», diceva la signorina Alice di Belvei, «e non ho mai udito una sola bestemmia. Lo feci notare ad un contadino che mi rispose: «Non siamo meglio degli altri, ma ci vergogneremmo troppo a commettere simili colpi vicino ad un santo». La prima sera che passammo nel paese, racconta un viaggiatore venuto da Lione, fummo testimoni di una scena che ci diede l'idea esatta dell'influenza del curato d'Ars. Tre uomini trascinavano con due cavalli un grosso tronco d'albero. Giunsero vicino ad un ruscello, il Font Blanc, e tentarono di farlo valcare al loro traino. Uno dei cavalli si impennò, fece un passo falso e cadde in una posizione pericolosa. Gli uomini si precipitarono ad aiutarono il cavallo ad alzarsi. Particolare straordinario che ci lasciò assai sorpresi, quei tre contadini non provarono il minimo impeto di collera, non si scambiarono nessun rimprovero, non percossero la povera bestia e non lanciarono neanche una bestemmia. Tanto grande ritegno in contadini minacciati nei loro interessi a noi era sconosciuto. Davvero un episodio molto indicativo. E dobbiamo ancora rilevare che il curato d'Ars raccomandava ai suoi parrocchiani la recita, ogni volta che sedevano a tavola, la recita del Benedicite come ringraziamento al Signore per il cibo che assumevano. E poi dopo il pasto raccomandava il ringraziamento e dice che ben pochi vi mancavano. Poi era anche riuscito a far dire l'Angelus Domini a tutta la parrocchia, 3 volte al giorno. Dovunque si trovassero queste sue pecore, quando sentivano i 3 rintocchi di campana, allora tutto si fermava, il lavoro si fermava, gli uomini si scoprivano il capo, le donne congiungevano le mani, si inginocchiavano tutti e recitavano l'Angelus Domini. E la stessa cosa succedeva non solo nelle case, ma anche per i sentieri di campagna, per le strade del paese. Inoltre, riuscì anche a far praticare ai suoi parrocchiani un'abitudine che aveva lui stesso, cioè la famosa abitudine di benedire l'ora. Cioè lui aveva fatto mettere sul campanile un orologio, in modo che quando suonavano le ore, i parrocchiani le benedicevano recitando un'Ave Maria. E dovete sapere che in primavera, al tempo della semina, i contadini mettevano nella terra delle piccole croci perché per i meriti di Gesù Cristo il raccolto fosse preservato dalle intemperie. E quando poi, venuto il raccolto, i mietitori falciavano il grano, ogni volta che scoprivano di queste croci si inginocchiavano, recitavano un Pater e un Ave, oppure anche intonavano l'inno Ave Crux o Spes Unica. Ecco, dovete sapere che i contadini di Ars erano anche talvolta, insomma, un po' presi in giro dai loro colleghi dei paesi vicini, che dicevano: se ascoltate il vostro prete vi farà diventare tutti frati. Però era gente che non si impressionava. Il santo curato aveva insegnato la virtù della carità e del perdono, per cui non si impressionavano e rispondevano così: il nostro curato è un santo e noi gli dobbiamo dare ascolto. Ecco, adesso dobbiamo sentire un'altra testimonianza bellissima di un pellegrino di Lione giunto ad Ars, che si meraviglia molto del comportamento molto corretto di questi abitanti. Ciò che subito ci colpì, racconta ancora il pellegrino lionese, fu la calma e la tranquillità di quei luoghi. Là sembrava che si respirasse un'aria più dolce che altrove. Gli abitanti si salutavano e ci salutavano con gentilezza, ci davano spiegazioni con cortesia. L'ospitalità cristiana e le relazioni fraterne sembravano abitudini di tutti. Notammo che le case erano state ornate di statue della Madonna o di immagini di santi. Vedete, io non sono un grande esperto di Međugorje, però ci sono stato anch'io, per cui mi sembra di vedere un pochino qua quello che oggi succede a Međugorje, cioè una popolazione completamente trasformata da questa realtà soprannaturale che c'è in mezzo a loro. Allora era il santo curato ad Ars, oggi invece a Međugorje sono le apparizioni della Madonna. E diciamo che in entrambe le situazioni c'è qualcosa di soprannaturale che cambia completamente non solo l'anima, ma diciamo anche il corpo delle persone, le loro abitudini, il loro modo di vivere. Ecco, un'ultima cosa che possiamo dire mentre scocca la mezzanotte è questa: che Don Vianney continuò in quell'opera molto preziosa di visitare le famiglie, almeno fin quando poté, perché visitare le famiglie voleva dire proprio l'incontro personale del pastore con le sue pecore. E come già aveva fatto all'inizio, Don Vianney continua in questo metodo di arrivare improvvisamente durante il pasto di mezzogiorno, e prima di entrare, dato che non c'erano i campanelli, il curato d'Ars chiamava ad alta voce il capo della famiglia, e allora il capo della famiglia si alzava da tavola, lo faceva entrare con grande venerazione, perché ormai il santo curato era davvero considerato un santo da tutti i suoi parrocchiani. Ecco, era considerato un santo vivente, quindi dovunque era accolto con gioiosa venerazione. E lui stava, per tutto il tempo che gli dava la famiglia, stava in piedi, appoggiato al muro o appoggiato allo spigolo di qualche mobile, e parlava ora l'uno ora l'altro, interessandosi prima di tutto delle cose materiali, la salute dei genitori, dei figli, dei lavori, interessandosi dei raccolti, eccetera, però facendo poi scivolare il discorso su altre cose più importanti, senza lasciare il tono familiare, sempre in modo confidenziale, però lasciando scivolare, diciamo, la parola buona, che diciamo dà le ali e che dà ideale alle nostre povere occupazioni terrene. E allora intanto faceva con discrezione un piccolo esame di coscienza alla famiglia, se erano fedeli alla preghiera, se erano fedeli alla messa festiva, al riposo festivo, se i ragazzi erano obbedienti, se studiavano il catechismo, eccetera, eccetera. Ecco, adesso cosa dice Caterina Lassagne di queste visite? Da noi, dice Caterina Lassagne, era per tutti un piacere riceverlo. Qualche volta ha mangiato con mio padre, aggiunge Antonio Mandì, figlio del vecchio sindaco, ma mai dietro invito. Arrivava durante il nostro pasto e vi prendeva parte serenamente. Accettava una patata e non rifiutava di gustare un sorso di vino, che beveva alla salute di tutta la famiglia. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.